Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Hanno i loro problemi. Se alla fine i talk show di martedì scorso tutti e due fanno meno di Rambo, no, non c'è da ridere, è un dato di fatto. Se tutte e due i talk show fanno meno della 107esima replica di Rambo, evidentemente che replica per replica, trama conosciuta per trama conosciuta, emozioni già viste per emozioni già viste, finale che è sempre lo stesso in tutti e tre i casi, almeno si va nella storia scritta meglio degli americani. Io sono tra quelli che lo rivedono per la 101esima, per cui da questo adora punto Rambo, di vista è un po' Rambo so, anche no, lei la serracchia. No, è che ci sono cresciuta, no? Io mi ricordo, credo di aver avuto 12 anni quando sono andata con mio papà al cinema a vederla, insomma, quindi un po' ci sono cresciuta. La Serracchiadi è cresciuta con Rambo. Ieri Renzi, Giova, ha detto che non si devono temere i talk show del martedì perché fanno meno ascolti di una replica di Rambo. Renzi che si preoccupa degli ascolti del martedì, ma che cazzo fa Renzi? Deve guidare il paese, non diventare una guida TV. Se no lo mandiamo a dirigere TV Sorrisi e Cazzate. Voi lo vedreste per la 107esima volta Rambo. Beh, gran film ragazzi, che interpretazione di Sylvester Stallone, eh? Ha detto 14 parole in quel film, ma ragazzi, Rambo. Sì, Renzi ha individuato il nemico già da un po' di tempo, i talk show. Quelli che raccontano un'Italia triste, un'Italia un po' angosciata, un'Italia pessimista. Quelli il cui finale è già scritto come il Rambo, però almeno, visto che è già scritto, guardi la sceneggiatura scritta meglio. Rambo dunque, e non Ballarò, e non di martedì. Ma qui ho una notiziuola che ho scovato a pagina 12 del giornale, proprio all'interno di un articolo, una notiziola incredibile che farà saltare sul letto, sul divano, sulla poltrona, sulla sedia, non lo so dov'è, la nostra Paola Saluzzi. Paoletta, ho trovato una notizia. Dal 2015, evviva le rosse, torna ma diventa evviva la Paola. Ho trovato con Paola una notizia. Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest. Sì, Paola la Saluzzi. Sigla. Allora, caro ascoltatore, non ce ne frega assolutamente nulla. Ce la mandi la nuova sigla 2015? Sì, prego, per cortesia la nuova sigla. Dai, la notiziuola. E qual è la Matteo notiziuola? Renzi guarda Sky TG24. Guarda Sky. Guarda. Ma bene. Ti guarda. Beh, non ama tanto sì. La Rai e guarda Sky e le serie TV americane. E anche la Paoletta guarderà ogni tanto. Ti vedo che sorridi e sto. Ma no, ma sono contento per te, sarai felice. Sarà felice il tuo direttore. Sarete. Bene. Cosa devo dire? Ma niente, esulta un po' di più. Siamo qui. Si lavora per essere sicuro. Bene. Questo vuol dire che il devo mettere la faccetta. Mercoledì diventa il mercoledì del direttore. È partito. Eccolo qui. Senza neanche. È proprio così l'annuncio che introduce Luca Dini. Vabbè, assolutamente nulla. Nulla. Luca. Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Io però devo dire una cosa, adesso poi mi becco del renziano, allora guarda, se mi devono dare del renziano, piuttosto accendo Ballarò, me lo vedo in replica o di martedì oggi, lo vedo il mercoledì. Però devo dire una cosa, io è anni che non riesco a vedere più di un minuto e mezzo dei talk show. Un minuto e mezzo, proprio il massimo, un minuto e mezzo. Ieri ho visto, vabbè, ieri c'era il Milan, scusate. Però Balotelli, rete! Grande Balotelli, è tornato Balotelli. Ha fatto una cosa. Vabbè, ha fatto un gol, ha fatto un gol. Ha fatto un gol veramente da urlo. Vabbè, ha fatto un bel gol, una bella punizione. È anche sorriso. Salutiamo sempre la capolista che è l'Inter. Comunque, caro Luca Dini, tu sinceramente, no, ma li vedi quei talk show? No. No, proprio zero. No, ma nemmeno un minuto. No, nemmeno un minuto, dai, sei proprio... No, è la adesso non c'entra niente quello che ha detto lui. Vale anche per Porta a Porta, cioè proprio è il talk che... Porta a Porta per me è troppo tardi, io dormo già. No, ma per Twitter, diciamo che è proprio è quella formula lì che ha fatto succedere. Ha stancato un sì. pochettino. Io un minuto ma ieri... Non è che lo dico io, lo dicono davvero gli ascolti, non c'entra niente anche la qualità dei conduttori, sì. È proprio... Sì, c'è da dire che però gli quando... Gli sono stufi di quella... È un po' una trama già vista, cioè sai già proprio gli interlocutori, il ministro, il controministro, l'imprenditore, il responsabile della società civile, ognuno dice le cose. Ieri ho visto Franceschini, ho detto no, ti prego, no, giriamo e vediamo il primo tempo, la pausa del primo tempo con pubblicità tra il primo e il secondo tempo di Udinese Milan. Ma non è colpa di nessuno, non è colpa dei conduttori, non è colpa di chi ci lavora. Ma fosse stato Inter-Borussia Dortmund, non avresti visto neanche la pausa. Ci sono tanti canali, ci sono tante robe. Conosciamo Super Milan. Vabbè, tu Paola che fai... No, per difesa dei colleghi tu li vedi tre minuti, dai, ammettilo. Ma adesso come siete? No, bisogna... Si vede quello che sia... maggiormente interessa a vedere e poi la critica c'è, la critica per fortuna siamo in un paese libero, quindi si possono criticare o lodare le cose che più si amano o meno si amano. Sì, resisto di più. Vabbè, facciamo un sondaggio veloce al 349-238-6666. Guardate i talk show in TV, i talk show quelli politici, alla sera, al mattino, al pomeriggio, i Porta a Porta, i Ballarò di martedì, Piazza Pulita, Virus, chi più ne ha più ne metta, scrivetecelo. Mi scrive Andrea dall'Autolaghi, come sempre. Vedrai che anche la Boschi ti ascolterà le mattine, di sicuro. Tirati su, va bene, se il ministro Boschi ci ascolta, mi fa molto piacere. Allora, io però ieri mi sono occupato della vicenda Harry De Luca. Harry De Luca che potrebbe rischiare una condanna a 8 mesi di carcere perché... Allora, c'è un altro che invece è già stato condannato ed è Umberto Bossi. Umberto Bossi diede a Napolitano del Terun. Mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica. Ma d'altra parte... D'altra parte, nome nomine, Napolitano, che si chiama Napolitano. Ah no, non sapevo che era Terun. L'era Terun, non sapevo. Per queste parole, Umberto Bossi è stato condannato a 18 mesi di carcere. 18 mesi di carcere per vilipendio al capo dello Stato, offese, non lo so, cioè metteteci quello che... Allora io dico, qui anche qui non si tratta di essere né leghisti, ma secondo me è una vergogna. Io vorrei vederli tutti quelli che hanno io sto con Harry, va bene. E Umberto Bossi per queste parole 18 mesi. Ora qui abbiamo due... Luca Dini non è amico della Lega, lo so, secondo me non è molto amico della Lega, non molto. Però sono d'accordo con te, è anche un reato anacronistico. Ma sì, ma dai, gli ha dato del terreno. Ci sono cose molto peggiori che ho sentito dire appunto ai compagni di Bossi. E della Lega, ma assai peggiori, sono passate del tutto inosservate. Va bene, Paoletta, che dici? Io chioso con una delle massime di Luciano De Crescenzo. Tolti gli eschimesi, siamo tutti i terroni di qualcuno. Questo è quindi, vero. È così, voglio dire, ha detto Terun, 18 mesi. Sì, ma da, ma cioè, insomma, sembrano molti. Di contro ha invitato negli anni d'oro gente a fare uso al posto della carta igienica del tricolore, insomma, cose le sono state. Ma che per carità, gravissima anche quello, ma, ecco. ma si possono condannare le persone perché ha dato del Terun al capo dello Stato, ma vilipendio alle istituzioni, ma dai, ma poi in un comizio della Lega in cui volano di quelle frasi che apre di cielo. C'è anche chi dice se c'è la guerra restassero di loro, insomma, a combatterla. No, ci sono tanti modi di dire cose sbagliate, brutte e che andrebbero, come dire, perseguite. In questo caso è stato fatto così per Roberto Bossi. Adesso cosa succederà? Andrà in galera per 18 mesi? Ma no, ma non farà un giorno di galera, sospenderanno la pena per 18 mesi di carcere, ma vi rendete conto? Farà appello, non lo so, sarà il primo grado, ma dai. Spero. Però quella di De Crescenzo è carina, c'è sempre risultato. Sì. Siamo tutti terrone di qualcuno, terrone, effettivamente. Anch'io sono terrone rispetto ad Angela Merkel, per esempio. Sono ma pensa ai pinguini che devono dire. Stanno lì. Va bene, qua c'è chi ci dice non vedo neanche un minuto, poi c'è Domenico della provincia di Lodi, guardo solo Sky. Vabbè, ma ho capito, ma siete pagati da Saluzzi? Non ho capito? Adesso, No, non lo so. Io lo vedo solo se ci sono Di Maio o Di Battista ospiti. Ma che perversione c'ha questo Massimiliano D'Alecco? Massimiliano D'Alecco, solo se ci sono Di Maio o Di Battista. È il palinsesto personale anche per quanto riguarda gli ospiti. Esatto, c'è un'offesa anche gravissima di chi mi scrive: ascoltare voi o i talk show, che differenza fa? Io mi sento offesissimo da questa cosa, però non lo so, manco mor... Luca, 18 mesi di carcere. 18 mesi di carcere, subito, per questo ascoltatore, subito vilipendio a Radio 24, vilipendio alle istituzioni. Allora, Bossi, l'abbiamo sistemato... Tu hai citato la guerra, Paola Saluzzi? Sì. Sai che c'è una. Oggi è nato il dibattito. Io l'ho visto anche su Vanity Fair, ne discutono. Ma perché Miss Italia dovrebbe essere anche intelligente? Ecco, questo è il dibattito. No, vabbè, ho detto qualcosa di sconveniente. No, ho detto qualcosa di sconveniente. Cioè, Miss Italia è vilene, letteralmente sommersa da presa in giro, diciamo così, perché da due giorni, perché ha detto quella frase: avrei voluto vivere la guerra. Sì, non è una delle frasi più felici. La frase, eccola qua, senti, risentite. In quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere? Dai, e chi vorreste essere state? Forza. Tiene, Alice, prego. Dai, Alice, visto che sei la prima qui. Eccoci qui. Nel 42, 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale? Nel senso, l'anno va bene, poi c'è una motivazione pure. Qua Amendola però l'ha messa un po' in difficoltà. Sì, per vedere realmente la Seconda Guerra Mondiale, visto che i libri parlano, pagine e pagine. Parlano, scrivono. Però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei stata a casa con la paura di... Capito, Simone, siamo passati da vorrei la pace nel mondo a vorrei vivere la guerra. Grande, Vladimir, grande, l'ha salvata in corner, con un intervento in corner, Vladimir Luxuria, dall'alto della sua intelligenza. Caro Luca Dini, deve essere anche intelligente Miss Italia? Beh, basta decidere quali sono le regole. Forse se lo deve essere bisogna cominciare ad applicare la regola del casting, voglio dire. Mi pare strano che si arrivi lì a quel punto e poi... Cioè, sì. È un gioco, diciamo, divertente e crudele, quello di mettere in difficoltà quelle ragazze e di prenderle poi in giro per quello che hanno detto. La frase è infelice, però, veramente... Sì, perché presa la sprovvista anch'io, ripeto, cioè se chiedesse una domanda del genere a una diciottenne, cioè quando io avevo 18 anni mi chiedevano sul palco in prima serata, io non ero sicuramente a Mister Italia, non state tranquilli, non ci sarei mai stato, però voglio dire, mi avessero chiesto una cosa così diretta, non è facile dire in che epoca e chi avresti voluto essere. Oh mamma mia, tu Paola Saluzzi? Avrei dato subito la risposta, sì, certo. I miei 18 anni corrispondevano al centenario di Garibaldi. Io Garibaldi non avrei voluto essere Garibaldi, avrei voluto essere una donna, mica scema, al seguito di Garibaldi. Io lo avrei seguito ovunque quell'uomo. Anita, è giusto. Povera Anita, no, Anita l'ha seguito fino effettivamente alle estreme conseguenze. Ho capito. Sicuramente avrei voluto vivere nel Risorgimento. No. Periodo risorgimentale come Garibaldi. Cioè, secondo te tu a 18 anni avresti avuto tutta questa elaborazione mentale? L'ho detta in sede di esame di maturità classica, quindi ho detto scusate, io a Mister Italia non ci sarei mai andato, Luca Dini men che meno, però invece Paola Saluzzi, qui abbiamo una che ha buonissimo titolo poteva davvero calarsi nei panni di questa Alice, e quindi tu avresti risposto così. La ragazza voleva fare, credo, un omaggio alla propria bisnonna che ama tanto, e quindi voleva rivedere o pensare di vivere nella sua epoca, magari di viverle accanto. Quindi, insomma, poi sei lì e quantomeno l'ha detto, insomma, l'ha detto. Mi piacerebbe dire nel 42. C'è una minima fetta di coraggio anche in questo, no? Va bene. Poi devono essere intelligenti. La risposta è sì. Devono essere intelligenti. È bella, essere bella fa anche rima con intelligente. Beh, vabbè, in questo caso forse allora, dobbiamo rivedere Miss Italia. No, ma per carità, non voglio riaprire il televoto. Mi assegnano il Mister Microfono 2015 Lecchino. E va bene, fermata al Mister Microfono, ma sarei andata anche oltre al 2015, nel senso 2012, 13, 14. No, un ascoltatore 15. Fa così. Ti assegno Mister Microfono Lecchino 2015. Ma è pur sempre un trofeo, e quindi me lo porto a casa e me lo tengo stretto. Allora, dobbiamo andare al traffico, perché poi vorrei sapere da voi che macchina avete, se avete perché se avete una Volkswagen potreste scambiarla con un triciclo in questo momento al baratto comunale. Intanto andiamo al traffico. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti, grazie. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Alessandro Mida, mi sei bravissimo, mi piace tanto quando dice ma chi se ne frega. La riforma del Senato tira l'acqua in loro mulini, perché si devono riprendere la poltrona dopo il 2018. Grazie e viva l'Italia. Agli italiani non interessa un cazzo al Senato. Milan, chi ti sei bionda? Le nocche sono il fiore segreto della Merkel. Questa è mitica. Non so se capite il dialetto milanese. Paola Saluzzi vi tradurrà. No, non l'ho capita. Tu sei biondo. Non è che te sei mia il figlio della Merkel, sei mica il figlio della Merkel. Poi dovete sapere che io non le ascolto prima le segreterie, c'è il nostro Lorenzo Nespoli che le seleziona, eccetera. E questo è chic da parte tua, questa è arte. È chiaro. E quindi, io aggiungo alla romana, gli piacerebbe alla Merkel un figlio così? Ma va, sapete che io ho fondato il partito Chiavi alla Merkel, fate attenzione a come si scandisce, Chiavi alla Merkel. Opportuno andare anche di grammatica. Chiavi alla Merkel. Ecco. E maiuscolo e separato. No, dimmi Luca, che c'è? Se noi vilipendio. se no è vilipendio, esatto, se no è vilipendio, chiavi alla Merkel, e i sondaggi ci davano già il 4,2%, il doppio di Alfano, per dire. Adesso invece con questo problemuccio siamo scesi al 3,9, ma i sondaggi vanno sempre buoni. Ovviamente chiavi alla Merkel vuol dire affidare le chiavi dell'Italia a una che ci sistema in 4,48. Questa roba un po' ci ha messo in difficoltà. Tu, Luca Dini, che macchina hai? È un diesel tedesco, ma è un BMW. Ah, allora, vabbè, adesso arriviamo anche da quelli, eh? Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Per ora abbiamo sistemato Volkswagen, e poi magari l'Audi, e poi la BMW. Tu, Paoletta? BMW, Mini, diesel. Vabbè, ho capito. Pensate di essere a posto, quindi no, però in realtà qui seriamente c'è tutta la questione che pare che il governo di Berlino sapesse, Paola, sapessero tutto. Ora il pare chiaramente si diffonde e dilaga a macchia d'olio, anche laddove forse l'olio andrebbe contenuto negli appositi contenitori, nel senso che non ora tutto è possibile, e dire che tutti sapessero, tutti volessero, è la domanda adesso che si pone. Ma chiaramente ieri, per esempio, Cecilia ha fatto già una nota nella quale ha detto niente che spartire, adesso il concetto è, ma queste centraline intelligenti sono solo sulle auto Volkswagen? O sono intelligenti come Miss Italia? Un po' è stato un dolore, perché insomma la Volkswagen è una, io parlo in termini, vedi come sono europeista, sì. È un marchio che dà sicurezza, no? che corrisponde a un grande valore di macchine, insomma, chi ha una Golf o ha mai avuto Golf, se la ricorda. Sì, però adesso tutto il mito della certezza tedesca, dell'indistruttibilità tedesca, sapete che poi i tedeschi bisogna recuperare, hanno un termine, i tedeschi, che oggi leggevo su Repubblica, è straordinario, è il Schadenfreude, cioè che è intraducibile in tutte le lingue, cioè il godere, quel godere poi delle disgrazie altrui. E quindi adesso sanno benissimo i tedeschi come tutti stiano godendo un po', dai Luca Dini, un po' è così, io trovo un po' fastidiosa questa cosa, però. Cioè, come dire, chi è? Cioè, io non ci trovo niente di divertente, non mi fa godere, e trovo bizzarro onestamente che la Merkel sapesse questa cosa, però... Magari è vero. Staremo a vedere. Se non capisco in che modo e perché avrebbe dovuto essere. Ma ci sono delle dichiarazioni che adesso sono andate a rispulciare del ministro dei trasporti tedesco, che aveva fatto qualche dichiarazione, come dire, che riletta oggi sembra sapesse qualcosa. Comunque, Marchionne è intervenuto, cioè Crozza Marchionne è intervenuto. Eccolo qui. Buonasera, dottor Marchionne. Buonasera. Non voglio che mi si dica grazie. Ma perché, scusi? Per questa cosa della Volkswagen. Ma perché c'è lei dietro lo scandalo dei fumi di scarico? Io? No, ha detto con grazie. No, figuriamo. Ah, no. Io non sapevo nemmeno che le macchine facessero fumo da dietro. Come no? Questo è Marchionne Crozza, vabbè. Io qui... Staremo a vedere. Comunque, è stata una pagina... Buffa e brutta. No, ma è chiaro. Niente, ma economicamente hanno perso 18 miliardi di euro in borsa l'altro ieri. Poi la borsa impazzisce subito, cioè o è uno o è l'altro argomento, ha sempre un motivo per andare. Comunque, pare truccate 11 milioni di auto. Questo per quel che riguarda Volkswagen. Va bene, io vedo qui su Vanity Fair in copertina c'è Skin, perché parte X Factor, e speriamo di trovare qualche bel giapponesino come l'anno scorso che canta. Te lo ricordi? Certo, Ressenziare. Sì, mitico. Delle interviste mi piace molto. Siete andati a intervistare, perché il giornalismo si dimentica tutto in fretta, no? Siete andati a intervistare Luz. Chi è Luz? È uno di quelli di Charlie Hebdo. Ve li ricordate, Luca? Ma non se ne parla più, ne hanno ammazzati non so quanti, 7-8. Più erano di più. Sì, lui è quello che si è salvato per una coincidenza, diciamo. Sì, non era in redazione. Era il suo compleanno, è arrivato tardi in redazione. Che racconta di quello? Che è rimasta di quell'eredità di quel siamo tutti Charlie Hebdo, no? Ma più che altro è rimasta la consapevolezza. Lui dice: noi giocavamo e francamente in fondo non sappiamo nemmeno quello che stiamo facendo. E poi c'è la bella notizia che sta per avere una bambina, cioè quindi insomma la vita continua. E lo trovate, su Vanity Fair in edicola. La nostra Paoletta Saluzzi invece che fa? Sky TG24 pomeriggio, oggi Senato. Immigrazione, Senato. Oggi a Bruxelles più che mai è vero. Si parla e si decide, però permettetemi oggi di ricordare un ragazzo come Siani. Che 30 anni sono passati fa. 30 anni e sarebbe così giovane anche oggi. È vero, Giancarlo Siani 30 anni fa fu ucciso. Un giovanottone, chissà in 30 anni quanto ancora avrebbe scritto. E così è giusto ricordarlo non solo oggi, ma come persona bella. Mi sembra giusto. Aveva paura, come tutti, umanamente parlando, e l'ha dimenticata all'ultimo posto delle cose a cui pensare. Mi sembra giusto. E 30 anni fa, proprio oggi, fu ucciso Giancarlo Siani. Vi ringrazio, Luca Dini e Paola Saluzzi. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, ci siamo come il Milan! Ci siamo come il Milan! Fatemi stare un po' ringalluzzito, dai, per due giorni, che poi domenica c'è un'altra partita, e fatemi sorridere così. 7:17 minuti, siamo pronti a leggere i giornali. Di che parleremo? Allora cercheremo di parlare di questa storia della cultura, le polemiche, il Colosseo non sono ancora finite. Avremo il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, avremo un sindacalista del settore cultura, avremo anche l'assessore Esposito del Comune di Roma che ieri per un problema d'aereo non è stato dei nostri. E parleremo insomma di tanti temi, andremo in onda fino alle 9:30 anche oggi, poi domani, poi venerdì, poi basta, rientriamo fino alle 9. Ora andiamo a leggere i giornali. Eccoci qui, è mercoledì 23 settembre, i titoli sono molti declinati su quello che succede in Germania dopo lo scandalo Volkswagen, crolla ancora, truccate 11 milioni di auto, questo è il titolo del Sole 24 Ore in prima pagina. L'accusa invece per il Corriere della Sera, che viene dal quotidiano tedesco, da un quotidiano tedesco, ed è questa: Volkswagen Berlino sapeva, è il titolo di prima pagina. Repubblica, la truffa mondiale dell'auto. Per Libero, Merkel al volante, pericolo costante. Anche il Giorno, Volkswagen Berlino sapeva. E così il Messaggero, Volkswagen, Merkel sapeva, è il titolo davvero più gettonato. La Stampa, un'intervista al segretario di Stato americano Kerry, Putin smetta di sostenere Assad, aiuta gli estremisti. Ma ancora, eccolo qua sul Giornale, i furbetti tedeschi, la Merkel ha fuso. L'Unità, Volkswagen, modello autogol. Mentre il Fatto Quotidiano, è da qui che voglio partire, bavaglio a giornali e talk show, Forza Italia, il PD è come noi. Allora, che succede? Ci sono le polemiche sui giornali. Io prima ho lanciato un mini sondaggio tra i nostri ascoltatori al 349-238-6666 chiedendovi: ma voi li vedete questi talk show politici? Ballarò di martedì, Piazza Pulita, Virus e altri, La Gabbia, il nostro amico del Debbio, Quinta Colonna, li vedete? Troppo pessimisti, questa è l'accusa di Renzi, che ha detto fa più spettatori la replica numero 107 di Rambo rispetto ai programmi del martedì, ha citato soprattutto. Ed eccolo qui, allora tutti i giornali raccontano le trame democratiche per il Giornale, troppo pessimisti all'editto renziano contro i talk della Rai. Tra l'altro scrive il Giornale che Renzi preferisce Sky e le serie TV americane, guarda pochissimo la Rai. La replica sul Fatto Quotidiano di Giannini, conduttore di Ballarò: noi raccontiamo la realtà e il giornalismo. Ieri è intervenuto anche Crozza. E Repubblica, che dedica una pagina a questo, l'affondo PD sui talk show vanno rivisti, e l'intervista a Carlo Freccero. Carlo Freccero è nel CDA della RAI, intervistato da Annalisa Cuzzocrea, certamente non un renziano Freccero, anzi tutt'altro. Intervistato a pagina 17, dice: se il premier fa come Silvio, puniscono qualcuno, io lascio Viale Mazzini. Mi preoccupa, dice Freccero, che la direzione generale possa decidere di seguire la poetica di Renzi su come deve essere la RAI, una TV pubblica che non può fare critica al potere, non può dar la parola alle minoranze, non può raccontare situazioni di cinesizzazione del lavoro, come ha fatto Iacona con l'ultima presa diretta. Non ho sentore di decisioni di questo tipo. In questo momento no, ma il 24 c'è il CDA, cioè il Consiglio di Amministrazione. Non abbiamo avuto avvisaglie. Vedo ormai un uomo solo al comando che agisce come se fosse nella casa del Grande Fratello. Se l'avesse mai dette Berlusconi queste parole, sarebbe successo di tutto, dice Freccero. Io finora ho visto solo persone che vogliono difendere il prodotto Rai. Se dire che Rambo è meglio di due talk è stata un'interferenza, andiamo avanti. Ma se ha un mandato affinché queste idee vengano realizzate, bisogna abbandonare il consiglio di amministrazione della RAI e passare ad altre forme di opposizione a questi editti. Solo il vero erede di Berlusconi poteva dire questo. Così Carlo Freccero critica moltissimo la svolta renziana e le critiche renziane sui talk show. Staremo a vedere, ci saranno anche le nomine Rai tra poco dei direttori, molto probabilmente, e quindi vedremo e si capirà qualcosa da lì. Oh, ieri, come sapete, ho fatto la puntata su Harry De Luca, le sue frasi, l'accusa di aver incitato alla violenza contro i cantieri dell'alta velocità. E trovo incredibile che si possano processare delle opinioni e condannare a 8 mesi, come ha chiesto il PM, poi staremo a vedere, delle idee, delle parole. E allora trovo ugualmente incredibile, forse ancora di più, la condanna che è arrivata, questa è arrivata sì, a Umberto Bossi. Guardate che qui non è questione di essere per un partito o per un altro partito. 18 mesi di carcere, condannato Umberto Bossi perché diede del terun a Napolitano, ex presidente della Repubblica, in un comizio della Lega, dove volano parole e accuse ben più gravi, vilipendi, offese al capo dello Stato, 18 mesi di carcere. Io voglio pensare che neppure in Burkina Faso, dove c'è stato un colpo di Stato poco fa, ci sia una legge che prevede questo. E comunque, e c'è a Bossi 18 mesi per vilipendio di Napolitano, eccolo qua sul Corriere della Sera, oppure Repubblica, no, anzi La Stampa, disse terun a Napolitano Bossi, condannato a 18 mesi di carcere, un reato tipico d'opinione che i leghisti qualche anno fa volevano pure abolire, ma siccome il reato ancora c'è, Umberto Bossi condannato dal Tribunale di Bergamo a 18 mesi di reclusione per vilipendio del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché all'epoca era Monti e fece anche delle battute a sfondo sessuale in quel comizio nei confronti di Mario Monti. Vabbè, c'è invece uno che problemi giudiziari le ha un po' meno, almeno per il momento, è Emilio Fede, per il quale la Cassazione ha detto: per Fede e Minetti il processo è da rifare. È stato giudicato inammissibile il ricorso della Procura di Milano per il processo Ruby Bis, si riparte da zero, sia per Emilio Fede sia per l'ex consigliere regionale della Lombardia Nicole Minetti. È stata la terza sezione penale della Cassazione a respingere il ricorso della Procura Generale, che aveva chiesto di annullare la sentenza, ma solo in vista di un ricalcolo della pena al rialzo per Emilio Fede. E Emilio Fede rispunta, intervistato dal Messaggero a pagina 14. Eccolo qui Emilio Fede. Sono serenissimo, quel che sarà sarà. Ho 84 anni, anche se mi condannassero agli arresti domiciliari, una cosa voglio fare, una. Ce lo dica, farò il diavolo a quattro pur di non andare da Don Mazzi. A differenza di qualcun altro, io a Don Mazzi non vorrei dare questa soddisfazione. Magari piuttosto mi incateno nella mia casa a Milano 2, ci sto bene, c'è anche un bel parco intorno e posso farmi delle passeggiate in tranquillità. Vabbè, un Emilio Fede che dice: ormai mi ricordano tutti e sono e sorrido che mi ricordino come colui che organizza le feste a casa di Berlusconi. Ma quando mai? Ora sono in giro a presentare il mio nuovo libro, Se tornassi ad Arcore, si intitola. Lo presento oggi per la stampa, insomma lui dice lo presento domani, cioè lo presenterà oggi a Roma. Ne ho mandato anche una copia a Berlusconi con la dedica, visto che il titolo è Se tornassi ad Arcore, dipende da te. E c'è più tornato ad Arcore? No, ma ci siamo sentiti e mi ha chiamato lui anche piuttosto recentemente. Questo è Emilio Fede con Silvio Berlusconi, il rapporto dunque continua. A proposito di carcere, invece, il Corriere della Sera racconta della visita che il presidente Mediaset Confalonieri ha fatto a Marcello Dell'Utri in carcere. Non è la prima volta, scrive il Corriere, che Marcello Dell'Utri va a trovare, che Confalonieri va a trovare Dell'Utri. Il problema, o meglio, la novità è che in questo caso si è saputo e quindi c'è il resoconto di questo incontro con Confalonieri nell'articolo di Francesco Verderami, che dice: ho paura per Dell'Utri perché ha perso 15 kg, si sente un sequestrato ormai e ho paura che perda la testa. Tra l'altro dice, secondo la sentenza Contrada, a questo punto non avrebbe più senso proprio per la giustizia che Dell'Utri stia in carcere. La nuova condizione mentale e nuova situazione giudiziaria fa dire a Dell'Utri: mio amico, sono sequestrato. Anche lui ha subito una condanna per fatti antecedenti all'introduzione della norma. Una norma, cioè la sentenza con cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto ingiusta la condanna comminata all'ex numero 3 del SISDE, Contrada. In base a quello, dice Confalonieri, ormai Dell'Utri non dovrebbe più essere in carcere, dunque dice, spero che venga liberato. Oh, c'è un fatto di cronaca terribile che è finito su tutti i giornali, è addirittura la prima pagina del Manifesto, proprio il titolo di prima pagina, ed è questo: fucilato sul campo. C'è la foto di un campo di meloni a Lucera in provincia di Foggia, dove Mamadou Sare, che dal Burkina Faso era venuto lì, era un bracciante agricolo, ma è stato accusato di aver rubato dei meloni e per questo è stato rincorso e freddato a colpi di fucile. Io non ci volevo credere nel leggere la cronaca di Carlo Vulpio a pagina 22 del Corriere della Sera. Sorpreso mentre ruba meloni, ucciso dopo essere inseguito nei campi. Quanto costa un chilo di meloni? Chiede Carlo Vulpio. Al dettaglio 50-60 centesimi. E quanti meloni ha rubato l'altra sera insieme a due amici dai campi dell'azienda agricola Piacente, a metà tra Foggia e Lucera, Mamadou Sare? 4, 5, fossero anche 6, 7, 10, al massimo 20 kg di peso, cioè 12 euro di valore. Questa è la cifra per la quale è stato ammazzato a fucilate Mamadou Sare, 37 anni, del Burkina Faso. Succede che Ferdinando Piacente e suo figlio Raffaele, 65-27 anni, il papà armato di fucile, piombano sul luogo del misfatto e colgono i tre africani, niente di meno che in flagranza di reato. Ne sarebbe nato un litigio, spintoni, mani in faccia, un po' di sangue dal naso di Raffaele, papà Ferdinando che spara un colpo in aria a scopo intimidatorio, i tre che fuggono. Sarebbe tutta finita lì, ma i Piacente inforcano il loro SUV, si lanciano all'inseguimento della Fiat Uno e come nei film sparano. La Fiat Uno si ferma, scendono le persone e ancora partono tre colpi. Uno colpisce alla spalla, uno al braccio, ammazzano Mamadou Sare, l'altro ferisce gravemente Adam Kadago, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Foggia. Il terzo ragazzo scappa per i campi, strisciando, come devono aver fatto mille volte i suoi avi nei campi di cotone americani. E scrive Vulpio: quando la notizia si diffonde, la rete diventa una discarica di commenti trucidi, folli, spietati, basici, che dicono: rubavano meloni, è giusto, li hanno ammazzati. Non ha usato le stesse parole, gli stessi concetti l'afasico popolo del web, quando a mezz'ora da Foggia Lucera il 26 agosto un altro agricoltore, Michele Marchese, ha ucciso con due colpi di fucile alla schiena un altro ladro di frutta, Antonio Di Ciomma, 67 anni, forse perché la vittima era un ariano di Cerignola e non un nero del Burkina Faso. Così Carlo Vulpio sul Corriere della Sera. Ma è questo l'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo che mi fa tenere le mani strettissime sul volante. Su Libero, gli eurodeputati si rifanno la sede. Il palazzo è stato costruito solo 20 anni fa, ma va ristrutturato. Così adesso avranno ognuno 3 uffici. 3 uffici a testa per ogni eurodeputato. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Milan, il pot come la Sebalsamic. Un saluto da Modena. Sempre, sempre dall'Emilia Romagna, sono straordinari, siete i migliori. 0246524492, ho decretato questo mio insindacabile giudizio, ovviamente siete i migliori e siete più numerosi, eh? Vorrei un po' qualcosa dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Val d'Aosta, dal Piemonte, dai, svegliatevi, svegliatevi! Allora, il caso Volkswagen continua lo scandalo che assume proporzioni sempre più clamorose. Si parla di 11 milioni di auto truccate, secondo quello che racconta Andrea Malan a pagina 3 del Sole 24 Ore. C'è tutta la cronaca, ma l'accusa più importante è questa: Berlino sapeva. Certo, bisognerebbe mettere un punto di domanda. Berlino sapeva? Il governo tedesco, leggo l'articolo di Michelangelo Borrillo, pagina 5 del Corriere della Sera. Il governo tedesco sapeva del Dieselgate. Lo testimonierebbe, secondo Die Welt, il quotidiano, la risposta del ministro dei trasporti tedesco a un'interrogazione dei Verdi del 28 luglio scorso, in cui il governo sostenne come fosse in corso il lavoro sull'ulteriore sviluppo del quadro normativo comunitario con l'obiettivo di ridurre le reali emissioni dei veicoli. Questa risposta, letta ora, viene interpretata dal quotidiano a dire il governo tedesco, quindi Angela Merkel, e l'accusa è fortissima, sapeva. Ora scattano i controlli anche in Europa. Il ministro dell'Ambiente Galletti, intervistato anche ieri a Radio 24, fa delle interviste a Repubblica, all'Unità, e dice: siamo pronti a bloccare le vendite se scopriremo che anche in Italia sono state vendute auto dotate di un software per ingannare i controlli sulle emissioni, sarà inevitabile far scattare il blocco delle vendite. Questo dice il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Leggo dall'intervista a Repubblica di Antonio Cianciullo a pagina 7. Però quello che più mi ha inquietato di questa vicenda è un'intervista che ho trovato invece a pagina 3 del Giorno. È perché, tenete bene a mente, allora Galletti ha detto: siamo pronti a bloccare le vendite se scopriamo che anche nelle Volkswagen vendute in Italia ci sono delle centraline che ingannano i controlli sulle emissioni. Il Giorno: test obsoleti e benefit ai controllori, barano tutti, chi più chi meno. Parla l'esperto americano Greg Archer di Transport and Environment, un ente no profit che rappresenta 50 organizzazioni ambientaliste europee in prima linea nella battaglia per la riduzione dell'inquinamento. Secondo questo signore, per carità è la sua versione, barano tutte le case automobilistiche. In base alle nostre verifiche, dice, i test sui consumi delle auto condotti in Europa non hanno alcun rapporto con la realtà. Le misurazioni dell'International Council on Clean Transportation dimostrano come tutte le case automobilistiche siano sulla stessa barca. BMW Audi dichiara consumi in media del 30% inferiore al reale, Mercedes del 26%, Fiat del 24%, Peugeot Citroën del 16%, Toyota del 15%. Ovviamente è intervistato da Elena Comelli, non è che sia la Bibbia, sia la verità quello che dice, ma questo esperto americano dice: in Europa ci sono occhi chiusi sulle frodi e vengono dati anche benefit a chi deve controllare. Non si sa ovviamente dove stia la verità, però questa vicenda che sta comportando perdite miliardarie dal punto di vista economico anche per Volkswagen non è per nulla finita. Invece veniamo alle cose italiane. Forse è finita l'ennesima telenovela tra minoranza PD e PD. L'intesa c'è, titolo al Corriere della Sera, oggi l'emendamento della pace. Non vi sentite più? Finalmente la pace. Sappiate che mentre voi state presi dalle vostre faccende, magari siete in coda, in questo momento state già smadonnando ai semafori, nelle code, sul grande raccordo anulare, nelle tangenziali, tra poco tempo, forse alle 9 di stamattina, verrà depositato l'emendamento della pace. Non vi rasserena la giornata? Forse è tutto a posto, si guarda solo con minima attenzione a Grasso, al comportamento di Grasso, capire se riaprirà i termini della votazione all'articolo 2 della riforma del Senato. E quindi tutti guardano a Grasso. Tanto che racconta il Messaggero a pagina 9 con Nino Bertoloni Meli, c'è stato ieri il faccia a faccia tra il ministro Marilena Boschi e Grasso, un faccia a faccia che non è stato per nulla un colloquio di cortesia o di diplomazia, men che meno di precisazioni o scuse. Non ce n'era bisogno. Pare che da lì sia stato dato il disco verde per l'approvazione definitiva della riforma del Senato. Un parlamentare che ha assistito alla scena raccontava che sembrava ci fosse pure Napolitano presente, quasi a supervisionare, non voglio dire a dettare, gli ultimi passaggi del comma della discordia da riscrivere. Ma pare che ci sia la pace. È scoppiata la pace, la riforma del Senato può passare. Renzi, racconta il Corriere, prepara il tour per il referendum, titolo di pagina 11 del Corriere, andrò in tutta Italia. L'obiettivo è portare a votare un cittadino su due al referendum, voglio proprio vedere in faccia chi avrà il coraggio di organizzare i comitati per il no. Renzi che rilancia e Forza Italia che accusa di compravendita di senatori, perché alcuni di Forza Italia se ne vanno, mentre torna Nunzia De Girolamo, che lascia il nuovo centrodestra e torna a Forza Italia, se ne vanno alcuni senatori. Due nello specifico di Forza Italia. Uno è il senatore Domenico Auricchio, che fa un'intervista a Repubblica e dice: sono loro ad aver tradito, io vado con Verdini, che è il vero leader di Forza Italia. Ma non si sarà innamorato anche lei di Renzi? Il premier è una persona che mi dà fiducia, dice il senatore Auricchio, ex Forza Italia. Renzi è un ragazzo in gamba, le dirò di più, il più grande rammarico di Berlusconi è che avrebbe voluto avere un figlio come Renzi. Che frase da parte del senatore Auricchio. E infatti pare che su Libero la reazione di Berlusconi, quando gli hanno detto che il senatore Auricchio ha lasciato Forza Italia, pare che Berlusconi abbia dichiarato: non portatemi più gente come il senatore Auricchio, voglio una squadra di frontman, di persone note, famose, non politiche. E Berlusconi, scrive Libero, ce l'ha anche questa squadra. Eccola qui, pagina 9, con tanto di facce, l'esecutivo dei sogni del Cavaliere, tornare al governo e presentare questo governo. Mario Draghi, presidente del Consiglio, Mauro Moretti all'economia, Diego Della Valle, ministro del lavoro, Leonardo Gallitelli, un generale dei carabinieri, ministro dell'interno, Luca Cordero di Montezemolo, ministro degli esteri, Flavio Briatore, ministro allo sport e Sergio Marchionne, ministro allo sviluppo economico. Alla cultura, Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, eccolo qua. Buongiorno. Oh, ministro della cultura, adesso non ti lamentare. No, ringrazio la designazione. Non ho capito bene se sono proprio citato o se è una tua interpolazione. Effettivamente forse ho un po' esagerato. Gli altri erano tutti veri, gli altri sono tutti veri. Gli altri no, però precisalo questo, perché poi magari diventa imbarazzante dover spiegare che non è così. No, anche perché guarda, ho tante cose da leggere, ho tante cose da segnalarti per il Sole 24 Ore, quindi non so se davvero avrei poi il tempo di occuparmi anche di queste, questi doveri istituzionali. Oh, ti voglio dire, ti sei messo la cravatta oggi? Sì, no, ieri, adesso... No, perché oggi ti segnaliamo appunto l'avvenuto completamento della riforma fiscale. E non puoi presentarti in disordine proprio quando dobbiamo noi presentare sul Sole 24 Ore oggi con più di due pagine nella parte iniziale del Sole 24 Ore, ma poi anche nelle pagine norme e tributi, tutte le grandi novità, tra cui appunto pure la concessione di rate bis, cioè stai pagando a rate un'imposta, non ce la fai, puoi chiedere un'ulteriore dilazione, ma è solo una delle novità, ce ne sono molte altre che spieghiamo appunto nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Così come per te non è un problema, ma per altri invece più anziani come me potrebbe essere interessante questo contributo che abbiamo di Marco Rogari, questo articolo di Marco Rogari sulla pensione anticipata. Se ne continua a parlare. Certo. Allora adesso si capirà che succede, si capirà con la stabilità nel senso della legge. Sembra che allora in legge di stabilità si decida qualcosa per poter anticipare la pensione da parte delle donne con la cosiddetta opzione donna, non fare cattivi pensieri perché non c'entra, parliamo di previdenza, e invece non è ancora sicuro che si possa mettere questo anticipo con le penalità, ne parlavamo anche ieri, ma leggi oggi il Sole 24 Ore, c'è scritto tutto. Tra l'altro una lettura che ti farebbe bene, ma non so se consigliarti, non lo so, oggi con il Sole 24 Ore diamo 16 pagine dedicate alle nuove regole sui bilanci. Perché non sai se perplesso? Ma perché non sei? Perché guarda, è una materia, magari se non leggi adeguatamente norme e tributi, non dico religiosamente, ma adeguatamente, un po' magari fatichi. Però io voglio dire, soprattutto gli amici professionisti, che invece presentiamo in dettaglio tutte le novità che debuttano dal 2016. Voi sapete. Non è importante che tu e io capiamo, Alessandro, questo è il senso. Chi deve capire, capirà leggendo le 16 pagine di Sul Sole 24 Ore. Ti posso anche dire che arrivano i 500 euro per i docenti per la formazione, ne riferiamo in norme e tributi, tra l'altro, e che arriva invece una strettuccia sulle prescrizioni mediche, gli esami. Esatto. Perché bisogna risparmiare, spesso inutili. E quindi hanno messo a punto al Ministero un decreto, ci sono 208 prestazioni che potrebbero essere tagliate o comunque prescritte solo a carico del paziente. Infine, so che l'argomento ti è caro, riferiamo nelle pagine di Imprese e Territori qual è lo stato di avanzamento del disegno di legge, quindi non c'è ancora niente di definitivo, disegno di legge sulle chiusure dei negozi. Ho fatto una puntata. So che l'argomento appunto ti è chiaro, si parla di chiudere i negozi una dozzina di giorni l'anno, però forse 6 giorni l'anno, ma ci sono ovviamente tendenze assolutamente contrastanti. Leggi le pagine di Imprese e Territori e come sempre, caro Alessandro, traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Cane in pista sulla radio, cadesca Alessandro Milan, quel che leggi giornali tutti i mattini il dissemper debosciati, che le menchele, dialetto brianzolo. Grande, grande cara ascoltatrice, effettivamente io pur di Sesto San Giovanni l'ho capito, grazie. Grazie, debosciati anche voi, miei affettuosi debosciati. Allora, in tutto questo dibattito, Renzi, sapete che 2 giorni fa se l'è presa anche con Varoufakis. Se lo semo levato di torno, ha detto durante la direzione del PD. E Varoufakis, che reagisce, prende carta e penna e viene pubblicata una pagina a sua firma, è l'ex ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, sul Fatto Quotidiano, pagina 4. Renzi ha partecipato al golpe, io ora faccio la sinistra europea. Una pagina in cui Varoufakis analizza la situazione degli ultimi mesi in Grecia, dicendo: la verità è portatrice di maggiori spunti di riflessione. È accaduto che con estrema durezza da parte dei leader europei, compreso Renzi, il primo ministro mio, Tsipras, il 12 e 13 luglio ha dovuto subire un insopportabile bullismo, autentici ricatti, pressioni inumane. Renzi ha svolto un ruolo centrale nel contribuire a piegare Tsipras con la tattica del poliziotto buono che ti si avvicina e ti dice: se non cedi, ti distruggono. Ti prego, accetta le loro proposte. Alexis e io ci siamo divisi sull'ipotesi che si potesse trattare o meno di un bluff. Questa è stata ed è tuttora la divergenza tra Alexis e me. E poi Varoufakis dice: a proposito di Renzi, ho un messaggio. Il premier italiano può rallegrarsi quanto vuole del fatto che non sono più ministro delle finanze, che non sono in Parlamento, ma lei non si è liberato di me. Sotto il profilo politico sono vivo e vegeto, come mi ricorda la gente in Italia quando cammino per le strade del vostro bel paese. E vabbè, insomma, Varoufakis che risponde per le rime a Renzi, c'è anche questo nella politica italiana o italo-greca. A proposito di sinistra, a proposito di comunisti, ma sapete che il Papa, che ogni tanto fa queste interviste e dialoga con i giornalisti durante il viaggio, durante i viaggi sul, a bordo del, dell'aereo papale, per l'appunto, e beh, ha fatto un'intervista che oggi è riproposta da vari giornali, la leggo per esempio da Gian Guido Vecchia, pagina 2 del Corriere della Sera, si è dovuto difendere l'accusa di essere di sinistra, di essere comunista, sapete, addirittura la pagina del, di Newsweek, la copertina, che si chiedeva, ma il Papa è cattolico? E beh, lui ha risposto intanto con la sua solita ironia, se volete recito il credo, sono disposto a farlo. E comunque sull'accusa di essere di sinistra, soprattutto dopo il viaggio a Cuba, dopo la stretta di mano con Fidel Castro, dice: io sono certo che non ho detto una cosa in più rispetto a ciò che c'è nella dottrina sociale della Chiesa. A proposito del mio intervento che ha teso la mano ai movimenti popolari, mi avevate chiesto ma la Chiesa la seguirà? E io ho risposto: sono io a seguire la Chiesa. Credo di non aver detto una sola cosa che non fosse nella dottrina sociale della Chiesa. Le cose si possono spiegare, forse qualcosa ha dato un'impressione un po' più sinistrina, ma sarebbe un errore di interpretazione. Così il Papa: io comunista seguo solo la Chiesa. E questo è il dibattito anche su Avvenire, seguo la dottrina sociale, è il titolo delle parole del Papa. Oh, noi parleremo di cultura, le polemiche, il Colosseo, gli scioperi. Sapete che i lavoratori del Colosseo hanno proclamato uno sciopero generale? Lo faranno ancora a ottobre, lo hanno già annunciato. Parleremo di questo, ma giusto la cronaca velocemente, c'è una segnalazione, ancora un paio di segnalazioni da fare. Questa mi ha colpito. Sul Fatto Quotidiano Paola Zanca racconta che il Movimento 5 Stelle di Roma vuole un'inchiesta sulle spese di Ignazio Marino, sindaco di Roma, con la carta di credito del comune. Ci sarebbero, condizionale d'obbligo, soprattutto alcune spese un po' eccessive in un ristorante di lusso al Colosseo, tutte fatte con la carta di credito che il sindaco, come tutti i sindaci, ha a disposizione direttamente collegata al conto della tesoreria del comune di Roma. Staremo a vedere. Vi segnalo anche due pagine, lo faccio anche su Periscope in diretta, visto che si parla di TV, lo faccio in diretta. Due pagine dedicate a Netflix. Netflix è la nuova TV che rivoluzionerà la TV in Italia, così dicono quelli di Netflix. Sono due pagine su Repubblica di Antonio Di Pollina, pagina 22, arriverà forse a ottobre. La TV che non propone news, sport, live, talk show, ma il resto sì. E soprattutto è la produttrice di House of Cards e altre serie di grande successo. Quindi film e serie di successo. Arriva Netflix e su Repubblica si spiega tutto e spiega di che si tratta. L'articolo più inutile sui giornali. Il dibattito su Libero, Alessandra Menzani, dopo le dichiarazioni di Miss Italia, sapete, volevo far la guerra, sì, che due palle quella roba lì, perché Miss Italia deve essere anche intelligente? Il dibattito, Miss Italia deve essere anche intelligente? Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milan, che te portino via fuoco. Ragazzi, siete spaziali. Alessandro Milan. Ma che cazzo è Alessandro Milan? Eccoci qui, sono qui, sono le 8 e 20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, andiamo in diretta fino alle 9.30 anche oggi e vogliamo parlare ancora e tornare sulla vicenda del Colosseo, perché sono passati alcuni giorni, le immagini però hanno fatto il giro del mondo venerdì, coi turisti in coda fuori per un'assemblea sindacale che era stata convocata, per la verità, con tutti i crismi della regolarità, rispettando tutte le regole. E però polemiche, sdegno, il decreto d'urgenza fatto in 448 dal governo per considerare ora il patrimonio culturale, dunque i musei alla stregua dei servizi pubblici, come un ospedale, come un treno, cioè chi lavora in quei settori considerati, non so, in un aeroporto, vuoi fare un'assemblea sindacale, d'ora in poi dovrai prima vedertela con il garante per gli scioperi. E le polemiche non sono finite, perché udite le sigle sindacali. Alcune sigle sindacali hanno detto che ci sarà a ottobre, non una data ancora non precisata, lo sciopero dei dipendenti del settore cultura. E quindi ci saranno altri casini? E chi lo sa, probabilmente sì. Ieri a Ballarò c'era il ministro Franceschini. Fare in tutte le televisioni del mondo girare immagini con turisti in fila non è la prima volta. Non è la prima volta. È capitato in luglio a Pompei, è capitato ancora l'anno scorso. Certo, ogni volta capita. Ogni però, volta ministro, noi abbiamo detto è un danno al paese. Io penso anche un danno al sindacato, mi dispiace. Un danno al paese e al sindacato, dice Ballarò Franceschini. Però voglio intanto salutare il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario al Ministero, buongiorno dei beni buongiorno. Culturali. Sottosegretario, le faccio questa domanda subito brutale, ma è più un danno vedere quelle code o è un danno alla cultura non pagare e non retribuire i lavoratori che da un anno aspettavano gli straordinari pagati, regolarmente guadagnati? Ma guardi, la sostanza della protesta, cioè il fatto di essere pagati dopo tanto ritardo, è assolutamente condivisibile. Questo ormai l'abbiamo detto tutti, come anche l'assoluto diritto di poter fare delle assemblee o di indire degli scioperi se il sindacato ritiene che questo sia giusto. Però adesso mi rifaccio a quanto ha detto Rocco Palombella, quindi un sindacalista della UIM. È sul modo che si è voluto intervenire anche con questo decreto, e credo che questo sia giusto, perché nel momento in cui il paese faticosamente sta cercando di riscattare anche quell'immagine devastante che Pompei in certi casi aveva creato, sì, io penso che quelle code che hanno fatto il giro del mondo non mi è dirà, una bella anche immagine. Al Louvre fanno gli scioperi, sì, però purtroppo noi siamo sotto una lente di ingrandimento molto antipatica in un certo senso. Quindi al Louvre hanno gli scioperi, però magari avvisano, la gente non sta in coda, però questa è colpa davvero dei dipendenti dell'aver fatto questa cosa, perché sai che circola un'altra voce maliziosa, e cioè è questa: il governo sapeva dell'assemblea sindacale e ha fatto in modo, senza far nulla, che succedesse un po' di putiferio, perché il decreto era già pronto. Ma senta, se vogliamo essere maliziosi possiamo anche dire che forse il sindacato sapeva che in quei due giorni sarebbero stati sbloccati i fondi. Io credo che per guardare domani, mi sembra che l'invito del garante sia molto saggio, e guardare anche a quelle che sono le giuste osservazioni del sindacato su una carenza di risorse cronica che ormai accompagna il Ministero da anni, nonostante un'inversione di marcia che il ministro Franceschini ha cercato di fare, perlomeno fermando la caduta di sottrazione di fondi al Ministero, si debba cambiare clima. E cambiare clima significa anche che lo stesso sindacato rivendichi tutto quello che ritiene giusto rivendicare, sì, per i lavoratori, ma all'interno di un quadro che non crea un senso sociale così alto come quello che soprattutto che non faccia circolare questi, che non porti alla circolazione di queste immagini nel mondo. Guardi, sottosegretario, io voglio presentare Claudio Meloni, che è il coordinatore nazionale CGIL del buongiorno. Ministero. Buongiorno Meloni. Buongiorno. Buongiorno. È vero intanto, Meloni, che ci sarà questo sciopero? Ma guardi, noi avevamo una stato d'agitazione proclamato prima della, sì, e indipendentemente da quell'assemblea, che era un'assemblea convocata dalle rappresentanze interne per discutere dei problemi del lavoro di quell'ufficio, oltre che dei ritardati pagamenti. Adesso andremo a conciliazione, vedremo sui punti di vertenza nazionale che ci sono e che non riguardano solo il pagamento del salario accessorio, ma per esempio la questione occupazionale, per esempio la questione delle riforme, sia quella in atto sia quella sullo sfondo, perché abbiamo un governo che fa due riforme in una, perché, sì, c'è una riforma in attuazione e un'altra riforma in arrivo. Su questi punti noi vogliamo avere, diciamo, delle... Quindi non è detto che c'è lo sciopero, perché ho letto della sigla sindacale FLP, Rinaldo Satolli, che dice invece guardi, è quello confermato, è un altro sindacato. Certo. Cioè, noi siamo CGIL, CISL e GUIL che abbiamo avviato questa mobilitazione. Quello è un altro sindacato. Adesso diciamo, capisco che è un po' complicato. Chiaro, lei risponde per il sindacato che rappresenta. Infatti chiedeva a lei. Senta, ma è vero? Perché c'è questo giallo. Franceschini ha smentito e ha detto non è vero che io abbia mai chiesto, o io o qualcuno al ministero, i nomi di chi ha partecipato a questa assemblea. È infamante un'accusa del genere. Le viene chiesto o no? Mi devono spiegare per quale motivo il soprintendente ha emanato una nota interna con la quale chiedeva di comunicare, pena sanzioni disciplinari, entro mezzogiorno di lunedì i nomi dei partecipanti all'assemblea. Tra l'altro quando potevano benissimo verificarlo sulla schermata dei badge, perché chi va a fare l'assemblea esce, deve beggiare. Quindi c'è stata questa richiesta? Assolutamente sì. Quindi non vedo che cosa deve smentire il ministro. Avete sbagliato nella forma, cioè hanno sbagliato questi lavoratori e hanno fatto un danno anche al sindacato stesso, Meloni? Ma guardi, io non credo affatto. Qui c'è un tentativo di criminalizzazione dei lavoratori, mi perdoni, perché il problema, i lavoratori hanno fatto tutto secondo le regole. La soprintendenza ha ritenuto di non avvisare soprattutto i tour operator, perché la mattina arrivano solo in gran parte tour operator a visitare il Colosseo, ma poi diciamo l'assemblea non riguardava solo il Colosseo, mentre invece la rappresentanza sindacale unitaria si è premurata di mandare un comunicato stampa due giorni prima con cui diceva che ci sarebbe stata questa iniziativa che avrebbe potuto provocare disagi ai cittadini. Insomma, voglio dire, hanno esercitato un diritto fondamentale. Sì, però la frittata, come dire, è stata fatta, perché le immagini sono state... Ma la frittata è stata voluta, perché noi non è che facciamo dietrologia, mi perdoni, però una decretazione d'urgenza che interviene su una materia così delicata non può essere fatta tra un tweet e un altro. Bisogna parlare con il Presidente della Repubblica. Quindi anche lei dice che c'è stato che qualcuno ha voluto in qualche modo sfruttare la situazione. È stato un vero e proprio agguato. Io dico che è stato un vero proprio agguato, fatto in maniera cinica sulla pelle dei lavoratori, e questi sono comportamenti che francamente sono inaccettabili. Devo dire però, io voglio anche lanciare il numero verde per intervenire, 800 24 00 24. Devo dire che se inizialmente, almeno quando ci sono state queste code, l'idea della gente comune di dire hanno fatto l'ennesimo pastrocchio, questi lavoratori hanno fatto l'ennesimo danno all'Italia, mi sembra, sottosegretario Borletti Buitoni, che tutte le persone siano state dalla parte della critica. Poi hanno analizzato un po' la situazione a dire effettivamente da un anno non ricevono gli straordinari, devono essere pagati. Perfino Briatore ha dovuto spiegare a Renzi che i lavoratori vanno pagati, sottosegretario. Siamo una follia, no? Ma guardi, infatti io sono assolutamente tra quelli, e credo che le mie interviste anche in altre occasioni lo abbiano detto, che ritiene da questo punto di vista la rivendicazione dei lavoratori assolutamente sacrosanta. Quello che io sostengo, ma è che sostengono in molti, è che una modalità di attuazione del diritto di sciopero o di assemblea fatta in modo che si possa, soprattutto nei monumenti più significativi e nei siti archeologici e nei musei più importanti, garantire la fruizione, essendo poi nel momento di picco turistico, perché questo ancora siamo, anche in previsione del Giubileo e con Expo ancora in corso, io lo ritengo francamente molto opportuno e molto saggio in questo momento. Ma questo non toglie nulla al fatto che una prestazione data e non retribuita è qualcosa che evidentemente non va bene. Sa che Salvini dice: per me potrebbero licenziarli tutti domani. Lo ha detto anche alla Zanzara. Lei Salvini dice molte cose. Poi, come sempre, è molto difficile essere dalla parte di chi decide e direi di chi governa, ed essere dalla parte di chi all'opposizione ritiene che la risposta populista sia quella che deve dare con più facilità. Se Salvini dicesse meno e dimostrasse poi come si fa a gestire un sistema complesso come quello dei beni culturali, forse il suo apporto sarebbe più utile. Ricordo però anche qualche sua intervista, la chiamammo anche all'epoca quando denunciò il fatto di incontrare degli usceri al ministero e non sapeva esattamente quale fosse il loro lavoro. Sono ancora lì e la salutano, buongiorno, buonasera. No, ormai siamo diventati amici, però vede, questo sono sicuro che sono lì, inamovibili. Il sindacato lo capisce perfettamente. Noi abbiamo sicuramente un sistema di gestione delle risorse umane che va a vantaggio anche degli stessi lavoratori, visto, perché per anni non è stato gestito. Le faccio un esempio molto pratico: molti dei nostri siti o musei aprono alle 8:30 di mattina. Questo non avviene in nessun paese del mondo, dove di solito si apre alle 10 perché a quell'ora non c'è una fruizione che richieda un'apertura così anticipata. Questo costringe a un numero di turni che, avendo una carenza di personale, sono sicuramente maggiori di quello che si stabilisce. È chiaro, poi, perché uno che inizia alle 8:30 finisce alle 5. Degli esempi, ma ne potrei fare anche altri. Cioè, quello che voglio dire è che siamo di fronte a una specie di rivoluzione nella gestione dei beni culturali. E quindi, pur nella garanzia dei diritti di tutte le parti in causa, bisogna che puntiamo tutti al fatto che diventi efficace questa gestione. Forse ci vorrebbero un po' più di custodi al Colosseo. Ho letto che sono forse 26 e sono pochissimi, mi sembra uno ogni 1000, dicevano ieri a Ballarò, uno ogni 1000 turisti, e forse ce ne vorrebbero un po' di più lì e meno in quei musei dove si raccontano in alcuni reportage ci sono, che ne so, un custode per sala e ci sono 50 visitatori al giorno, o no, sottosegretario? Beh, anche quello, la riforma dovrebbe permettere maggiore autonomia nel decidere strategie diverse a secondo del bene. Insomma, ripeto, non è una colpa del sindacato, è colpa del fatto che la gestione delle risorse umane è stata per decenni fatta in maniera, diciamo, tra virgolette, non professionale. Se lei va in un'azienda, chi si occupa delle risorse umane di solito è una persona che ha un profilo professionale che è esattamente quello, non è un altro, non è che viene dagli archivi o che viene da formazioni di carattere scientifico. Anche io credo che quello che sia mancato sostanzialmente è questo: una gestione professionale che rispetti l'interesse naturalmente di tutti, dei lavoratori, delle istituzioni, ma che rende il sistema efficiente. Io vorrei sentire, prima di tornare a Meloni, Filippo da Roma ci chiama all'800 24 0024. Filippo, eccoci. Buongiorno Milan. Eccoci. Siamo tutti sopra, siamo tutti più contenti dopo ieri. Dopo volevo dire, perché? Per il Milan, ovviamente. Certo. Perché sei milanista, Filippo? Sì. Ah, bravo. A Roma poi è da eroi. Bravo. Va bene, dai Filippo, eccoci. Volevo dire che effettivamente, secondo me, lo sciopero in questo caso è un po' diverso da fare uno sciopero per una fabbrica dove si lede l'interesse magari dell'imprenditore, perché in questo caso c'è il paese, c'è la nostra faccia. È un'assemblea sindacale più che uno sciopero, esatto, però insomma, esatto, diciamo, il risultato è che per 2 ore e mezza, 3 ore è stato chiuso, esatto, il Colosseo. Esatto. E poi forse se gli straordinari, io non ho capito molto bene, se gli straordinari sono solamente per il 1° maggio. Si potrebbe anche sacrificare. Appare nell'ultimo anno, però Filippo, lei ha un lavoro, cioè se fa uno straordinario e le promettono viene pagato, se non gli danno i soldi poi le dà fastidio un po', no? È vero, cioè la promessa non mantenuta dà fastidio, però se noi andiamo al merito, se si parla di qualche giorno in una situazione di difficoltà per il paese e per tutto, l'ho fatto tante volte io personalmente, per quello lo dico. Cioè Filippo dice, chi lavora lì deve avere anche la consapevolezza di lavorare in un simbolo, in un monumento. L'orgoglio, esatto. L'orgoglio con, anche. Con l'orgoglio uno dice, vabbè, mi faccio questi straordinari, pazienza, li offro al mio paese. Li e offro poi volevo dire alla paese. Signora, purtroppo non conosco la signora, non sì. ho capito. Sottosegretario, è il sottosegretario. Sottosegretario, buongiorno. Le volevo dire che comunque, visto che lei fa i paragoni poi con i paesi esteri, che noi cominciamo alle 8:30, ma in Europa ci sono molti musei che chiudono alle 10, alle 11 di sera. Appunto. Sera. Il problema è quello che se però aprono alle 8:30 del mattino, quello che fa il turno alle 8:30, poi alle 5 ha finito e mancano i custodi per i turni. Non so, Meloni vuole rispondere all'ascoltatore, offrite un po' di straordinari al paese. Ma guardi, qui stiamo parlando di salari medi che si aggirano intorno ai 1.200 euro, di personale che sono 6 anni che non ha il rinnovo contrattuale. L'attività di questi lavoratori è sempre stata al servizio dei cittadini, tant'è vero che indipendentemente da come viene dipinto, diciamo, la fruizione negli ultimi 15 anni è aumentata in maniera esponenziale. Sì. Poi io sento fare strani ragionamenti. La copertura dei turni nei musei serve a garantire innanzitutto, come sa bene il sottosegretario, la sicurezza e l'integrità del sito. E dire che, come ha detto il presidente Renzi, che i custodi se ne stanno stravaccati sulle seggiole, perché questo è il termine esatto, che è semplicemente offendere questi lavoratori che garantiscono questo e garantiscono la fruizione. Sì. Dopodiché noi non abbiamo nessuna difficoltà a discutere una diversa organizzazione degli orari. Discute, però ci sono gli uscieri che salutano tutti i giorni il sottosegretario. Ma diciamo anche quello, è una favola da elevare. Quella è gente che si alza la mattina e va a lavorare. Hanno assegnato un compito che è quello di garantire, diciamo, all'interno del ministero sono 4 persone. Sì. E fanno il loro lavoro, cioè non è quello il problema. Il problema è che questo ministero è stato, come sa bene il sottosegretario, massacrato dai tagli. Cioè noi ancora oggi abbiamo una dotazione di bilancio che è intorno allo 0,18%. E questo sicuramente è un problema sul quale anche il sottosegretario Borletti Buitoni ha sempre detto è sbagliato e va cambiato. Però sottosegretario, lavorano quelli, vuole chiudere lei anche magari rispondendo all'ascoltatore, lavorano. E anche rispondendo a Meloni, guardi, quando io parlo di una razionalizzazione dei turni mi riferisco per esempio anche al fatto che gli apparati di sicurezza dei nostri musei o beni storici sono assolutamente modestissimi e arcaici, cioè noi abbiamo un sistema museale e di beni culturali che è un sistema che è vecchio di 40 anni, per quello che la necessità di avere risorse umane otturnizzate come sono è una necessità che andrebbe rivista all'interno di un progetto di anche tecnologia diversa. Questa è la prima cosa. Per quanto riguarda i custodi e gli uscieri, ben lungi da me il fatto di non rispettare le persone. So benissimo che loro sono stati mandati lì e che questa non è una loro scelta. Però quello che io credo è che, avendo poi a 200 metri il museo di Palazzo Venezia, che non può stare aperto perché non ha abbastanza custodi, forse si potrebbe razionalizzare meglio la pianta delle risorse esistenti in modo da favorire la funzione di certi luoghi ed evitare che ci siano magari affollamenti in parti in cui sono necessari. No, ma è chiaro, banalmente spostarle. Non è che dico niente di rispettoso nei confronti dei lavoratori. No, ma per carità, spostare un lavoratore in Italia anche di 100 metri, spostare le abitudini non è semplicissimo. Io vi ringrazio, sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni e Claudio Meloni, coordinatore nazionale CGIL Cultura. Dopo la pubblicità ci sono gli ascoltatori, ci raggiungerà anche l'assessore di Roma Esposito. Tra poco state con noi. E allora, alle 8:42 minuti, Vanessa ci chiama da Roma. Buongiorno Vanessa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, io sì, chiamo da Roma, sono una guida turistica e un'archeologa. Ah. E, insomma, ho ascoltato con parecchio interesse il dibattito, anche perché, insomma, io ho avuto proprio quell'evoluzione che descrivevate voi all'inizio, cioè l'idea che un po' all'inizio questa situazione era l'ennesima dimostrazione di una cattiva gestione, però poi piano piano i contorni della storia si sono direi di sì, perché comunque abbiamo molti colleghi che lavorano al ministero e quindi, diciamo, sentendo tutte le loro recriminazioni, loro avevano tutti i diritti e soprattutto, ecco, io questo mi incuriosiva, cioè si è parlato appunto dell'inopportunità di diciamo scioperare o comunque fare un'assemblea in questo momento specifico, però sì, effettivamente questi lavoratori che cosa hanno sbagliato? Perché loro hanno fatto dal punto di vista formale nulla hanno comunicato, quello, si sapeva, hanno comunicato. Noi spesso, appunto, vi dicevo, io sono una guida e noi abbiamo nel nostro museo più diciamo affollato, che sono però i Musei Vaticani, una procedura per la quale abbiamo una comunicazione per chiusure anticipate, o in particolare del percorso che porta alla Sistina, che vi potete immaginare essere quello più atteso, oppure per le chiusure effettive. Loro effettivamente hanno fatto Cara Vanessa, quello che doveva essere fatto. Sa qual è la mia lettura? Siamo nell'era dello storytelling, dello storytelling, e questa immagine dei turisti in coda, nulla mi toglie dalla testa, è stata sfruttata per fare quello che è stato fatto. E certo, il messaggio che passa è, ma voglio dire, io non è che sono amico dei sindacati, mi sveglio e dico abbraccio un sindacalista come prima cosa, ma il messaggio che passa è: i sindacati frenano l'Italia, e questi lavoratori frenano l'Italia, mentre noi mettiamo le cose a posto. Questo è il messaggio che è passato, è lo storytelling, bellezza, bellezza, non Vanessa, era ovviamente la citazione del film. Grazie Vanessa, andrei a Treviso da Federico. Buongiorno Federico. Buongiorno Mila, complimenti. Eccoci. Per il cugino ieri sera. Dunque, tre cose veloci. La prima, la decretazione d'urgenza, adesso non vorrei essere troppo esagerato, ma mi ricorda che anche il coprifuoco è una decretazione d'urgenza, sì, tenendo conto delle condizioni, delle situazioni particolari. Ora, il fatto che siamo d'estate o siamo d'inverno non c'entra nulla con la seconda cosa che voglio dire, cioè nelle relazioni sindacali, nell'organizzazione, nella comunicazione. Siamo tutti nella regola, ma c'è una sciatteria generale in questo senso, che dove tutti in qualche maniera sono nel diritto, ma tutti sono colpevoli. Sì. L'ultima cosa che volevo dire, io non so, non ho sentito il presidente Renzi, ma che ci sia lavoratori nei musei che non fanno nulla e che sono stravaccati, li ho visti io, lo confermo, vivo e come, e non mi risulta che i sindacati abbiano richiamato i loro iscritti ad essere meno. Ah, ma su quello no, su quello no. Prova a spostare su quello, infatti, indifendibili i sindacati, e lo dico chiaramente. Grazie Federico. Dopo il traffico, ma è con noi il senatore Esposito, anzi, senatore, assessore, beh, tutte e due, senatore e assessore alla mobilità e trasporti a Roma. Stefano Esposito, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno. Il traffico. Visto che assessore ai trasporti, ascolti il traffico e poi siamo da lei. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. E allora, eccoci qui con l'assessore Stefano Esposito. Assessore, da cosa vogliamo partire? Beh, il Colosseo, insomma, non è proprio nelle sue competenze, però. Le polemiche, non è che è stata sfruttata questa occasione per fare una decretazione d'urgenza? È una lettura maliziosa? Sì, assolutamente sì, in realtà sì. Quello era un tema aperto da molto tempo, poi come avviene spesso in Italia, se non c'è il casus belli le cose rimangono a volte nel cassetto, ma le posso garantire che per quanto non mi occupi di beni culturali, onestamente, sì, è una questione che sento da parecchi mesi, peraltro anche giustamente, sul fatto che dai tempi, perché poi noi ci dimentichiamo sempre in questo paese, ma qualche mese fa discutevamo della legge di Caserta, se si ricorderà. Sì, come no, Pompei, ecco, poi Pompei, la situazione di alcuni musei. Poi naturalmente quello che avviene a Roma si amplifica oltre i confini nazionali, visto che ci sono altri guai. Senta, prima di venire a Roma però le chiedo questo: io ieri ho dedicato la puntata alla vicenda di Henry De Luca, sì. Sa che c'è un PM che ha chiesto 8 mesi di carcere per istigazione a delinquere, istigazione alla violenza nei confronti dei cantieri della TAV. Lei è uno dei più fieri sostenitori dell'importanza della TAV e per questo viene spesso anche bersagliato, criticato e minacciato. Che ne pensa? Sarebbe giusto condannare Henry De Luca? Ma guarda, io faccio una premessa: io non avrei, se fosse dipeso da me, per fortuna questo paese ha delle istituzioni indipendenti, io non avrei intentato il processo Henry De Luca, ma non perché non ritenga gravi le sue affermazioni, ma perché in realtà Henry De Luca era alla ricerca di una visibilità perduta. E soprattutto è alla disperata ricerca del martirio, e quindi ovviamente questo rischia di ottenerlo, lei dice. Ma guardi, rischia di ottenerlo non perché lo cerca lui, perché intorno a lui si muove tutto un mondo, e di questo non si parla, nostalgico degli anni, dei begli anni andati, secondo loro naturalmente, che invece per l'Italia sono gli anni peggiori per la nostra storia. Ed è un mondo fatto, mi permetta Milan, di intellettuali, di giornalisti, di conduttori televisivi che sì, non vedono l'ora di poter innalzare Harry De Luca, vittima della, quindi lei ha da fastidio che addirittura una possibile condanna potrebbe trasformarlo a emblema per qualcuno. La condanna, una volta che intenti un processo, poi naturalmente c'è un percorso. Però perché ho fatto questa premessa? Perché la vera condanna a Harry De Luca sarebbe stata sarebbe dovuta arrivare dal mondo, dall'Italia, dal paese, dalle coscienze critiche di questo paese. E invece, se lei fa un elenco, adesso non ho voglia di farlo perché sennò poi domani ci sarebbe la polemica perché ho dato patenti a qualcuno, ma basta scorrere i fondi dei giornali, guardare le trasmissioni televisive. Sono tutti con Harry De Luca. Che peraltro è un mondo che faceva riferimento in qualche modo negli anni 70 ad alcuni pezzi. Qual è uno? Me ne dica uno che ha dato più, fastidio, dai, uno. Creiamo un po' di zizzania. Ma guardi, in realtà su questo uno come Mentana non si è sottratto, per esempio, no? Ad un'analisi sul tema, no? Che però vede, è il mondo che è nato e cresciuto in quegli anni, che poi ha fatto tutt'altro, quel mondo che in molti casi coltiva ancora in qualche angolino del suo cervello l'idea che non si sta né con lo Stato né con le BR, se lo ricorda, no? Mentana perché non appartiene a quella scuola, ma per dire il diritto di parola che viene tanto evocato oggi non è il vero tema, cioè non è il vero tema, perché Harry De Luca avrebbe potuto tranquillamente, dopo le sue affermazioni, fare due cose che non ha fatto: una, prendere le distanze dalla violenza. Sì. Due, a fare una cosa che avrebbe aperto un bel dibattito nel paese. Lui è un intellettuale, si definisce tale, andare a rispondere all'appello degli operai del quartiere di Chiomonte, e questo dice non l'ha fatto. Che gli ha detto: vieni un po' a vedere chi siamo, come lavoriamo, guadagniamo la pagnotta. E vedi che le tue affermazioni, cioè, allora, naturalmente questo è un tema sempre molto evocato soltanto per alcune figure. Le faccio un esempio: se io da politico durante una manifestazione avessi incitato ad assaltare un palazzo pubblico, va bene, lei ci può scommettere che sarei, come dire, stato messo alla gogna. Mentre Harry De Luca però ha un passato di cui parla. È chiaro, qualcuno dice che gli voglio far scontare proprio quello. Però le voglio fare due domande su Roma. Ma questa vicenda dell'Atac, ancora ho visto, o meglio, della metro, ancora ho visto due giorni fa i cittadini addirittura sulle rotaie. Ma perché non si risolve? Che problema c'ha la metro di Roma? Lei l'ha capito? Guardi, allora, per le persone sui binari non erano sulla metropolitana, ma erano sulla ferrovia romana. Sulla ferrovia, sì. E non c'entravano con un guasto in quel momento, ne abbiamo tanti, ma diciamo, non c'entrava. Comunque, il problema della metropolitana e delle cosiddette ferrovie concesse, cioè quelle che erano una volta dello Stato e poi sono state passate alla regione e al comune, è molto semplice. Sono strutture vecchie, non si è fatta la manutenzione per anni, e naturalmente quando hai una macchina vecchia e pretendi che faccia 150.000 km l'anno e non gli hai fatto la manutenzione per bene, questo è il risultato. C'è zero investimenti. Il vero problema è che in questa città una rete importantissima come quella del ferro sotterraneo ha avuto zero investimenti. E quindi se faccio un esempio, a noi si... ieri mattina, e per fortuna è successo alle 5.40 e non alle 7, si è bloccato uno scambio della metro A. Sì. Quello scambio, sa quanti anni ha? 42. In tutto questo non è chiaro gli investimenti. In tutto questo era il caso che il suo sindaco andasse negli Stati Uniti? Sa che c'è stata questa polemica? Guardi, io le posso dire, mi piacerebbe che si giudicassero le azioni su Roma piuttosto che le polemiche, i viaggi. Personalmente, vede, io non mi muovo neanche da... faccio Roma Torino, Torino Roma, diciamo, me ne torno dalla mia famiglia, ma un sindaco come quello di Roma ha anche un po', diciamo, il ruolo di far l'ambasciatore. E infatti ha detto: sono lì a raccogliere fondi per la cultura, per il patrimonio culturale di Roma. Però purtroppo c'è un accanimento oltremodo nei confronti di Ignazio Marino, che le confesso, Non capisco perché si può pensare di tutto di Ignazio Marino, ma per esempio, siccome io questa città la vivo da 8 anni in maniera... io non lo ricordo questo accanimento, per esempio, nei confronti di Alemanno, e lì stavamo parlando di scandali uno dietro l'altro. Sì. Ignazio Marino ha la colpa, probabilmente, questa è la mia opinione, di aver messo le manine in qualche meccanismo che veramente pagare, non gliela fa, non... Allora io sì, no, è chiaro, ho un minuto, devo chiudere, vabbè, tutti dicono l'ha imparata la linea del 64, caro assessore, la linea del 64. No, guardi, l'ho imparata perché me l'hanno fatta imparare. E dopo mi ha detto che non lo sapeva. Non lo sapevo, ma sa quante continuo a non conoscere tutte il 99,9% dei capolinea da una parte all'altra delle linee. Però ieri sera dalle 22 a mezzanotte e mezza mi sono andato a fare un giro in silenzio senza pubblicità sulle famose linee, sulla 451, la 105, anche perché se la riconoscono le linee, ma dopo che ha detto, dopo che ha detto le quella linee, roba, famose linee su cui i controllori non vogliono andare a fare i controlli perché hanno paura di essere menati. Mannaggia, ha fatto questo, però mi devo fermare, mannaggia, avrei voluto farle tante altre domande, ma ci sarà ancora occasione, no? La vicenda sportiva quella la lasciamo. Sì. La ringrazio Esposito, devo chiudere qui. Stefano Esposito, assessore a Roma, noi andiamo avanti fino alle 9:30, state con noi. Buongiorno da Maurizio Melis. Cosa succede se mettiamo insieme veicoli autonomi, che cioè si guidano da soli, con il concetto di car sharing? La miscela potrebbe essere esplosiva e cambiare il modo in cui pensiamo all'automobile, che da mezzo prevalentemente privato potrebbe assumere sempre di più la funzione di mezzo pubblico individuale. Potremmo dire così. L'unico aspetto debole del car sharing, infatti, è la necessità di andare a cercarsi l'auto e i limiti per quanto riguarda il suo parcheggio una volta che abbiamo finito di usarla. Ma se l'auto viene a prenderci sotto casa e alla fine se ne torna da sola allo stallo, questi problemi sono risolti. Abbiamo un mezzo di trasporto pubblico ideale per i piccoli spostamenti e per coprire quel fatidico ultimo miglio che separa le dimore di molti di noi dal resto del sistema di trasporto pubblico. In un parco di Singapore si sta sperimentando proprio questo scenario con l'aiuto del MIT e di una di quelle golf cart che si usano per spostarsi appunto sui campi da golf. E noi ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:50. Buona giornata. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Con la prossima legge di stabilità prenderà il via la fase 1 del taglio delle tasse, ma attenzione perché una nuova tassa in effetti arriverà. Si chiamerà Digital Tax, un sistema anti-elusione per colpire le big company del web, quelle che tramite internet realizzano profitti da capogiro, ma poi le tasse non le pagano qui, sfruttando in modo sapiente le norme che consentono di tassare altrove questi guadagni. Qualche numero. Si stima che nel 2013 Google, Apple, Facebook e le altre big company abbiano realizzato in Italia un volume d'affari di 11 miliardi di euro. Bene, queste stesse società nello stesso periodo hanno versato al fisco italiano meno di 12 milioni di euro. Da qui l'idea del governo di introdurre una sorta di ritenuta del 25% su tutte le transazioni online, ritenuta che ne è certo il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti non ricadrà poi sui clienti finali, e questa ritenuta secondo il governo dovrebbe portare 2-3 miliardi all'anno nelle casse dello Stato. Il problema della tassazione delle multinazionali, va detto, non riguarda solo l'Italia. Dall'Europa agli Stati Uniti molti sono impegnati di ridurre questo fenomeno che si chiama profit shifting, ovvero lo spostamento dei profitti laddove il carico fiscale è più leggero. vero. Bene, funzionerà questa cura italiana? Beh, non lo sappiamo. Sappiamo però che persino l'Inghilterra è pronta a far partire un sistema simile a quello che si vorrebbe ora introdurre anche da noi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Siamo ancora qui fino alle 9.30, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 9.09 minuti, ora vogliamo parlare di che cosa? Beh, intanto voglio parlare di una cifra che è apparsa in un rapporto della Guardia di Finanza, ne scriveva il Corriere della Sera, ne scriveva anche il Giornale lunedì scorso, e riguarda tutti gli illeciti dei funzionari pubblici, cioè quanti soldi funzionari pubblici si sono fottuti, parliamoci chiaramente, quanti soldi hanno rubato allo Stato. Il rapporto della Guardia di Finanza sui primi sei mesi del 2015, dunque in sei mesi, in metà anno, 4.835 dipendenti pubblici hanno sottratto alle casse dello Stato, dunque a noi, se lo Stato siamo noi, 3 miliardi di euro, 3 miliardi. Saluto Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, ciao Fiorenza, ben ritrovata. Ciao, buongiorno. 3 miliardi. 3 miliardi sono tanti in sei mesi, eh? Non mica male. Quali sono i settori dove più si ruba, secondo la Guardia di Finanza? Ma sicuramente il settore del patrimonio immobiliare. Lo Stato ha palazzi, appartamenti, però o non li sfrutta per incuria, perché appunto ci sono addirittura case a Roma affittate a 7 euro, e quindi nessuno se ne occupa. Le famose case comunali assegnate da anni a 7 euro. Per carità, alcuni magari sono assegnazioni giuste. E poi sì, a 7 euro dubito. 7, le case comunali, quello è il canone mai aggiornato. Esatto. Però, insomma, i canoni mai aggiornati, affitti mai riscossi, e quindi questa è una parte. Poi ci sono naturalmente invece le vere e proprie ruberie, quindi palazzi venduti agli amici a prezzi stracciati in modo che si possa fare una plusvalenza e poi semmai uno se la divide, e questo diciamo è il settore più remunerativo per i corrotti. L'altro è sicuramente quello della sanità. La sanità, dove lo ricordiamo sempre gravita l'80% circa degli dei bilanci delle regioni, per esempio, è per la sanità, e quindi dove ci sono tanti soldi si ruba di più. Il doppio lavoro, i macchinari comprati dallo Stato e utilizzati nelle cliniche private, diciamo che il campionario è molto ampio. Mm. Ci sono alcuni casi. Sono i mancati controlli. Certo, ma infatti ci arriviamo. Ci sono alcuni casi emblematici, vabbè, e che in quanto casi emblematici finiscono sui giornali, come il dipendente di un ente di Catanzaro che per 7 anni ha percepito stipendio e pensione, insieme. Giustamente però dici, ma chi controlla? Nessuno, cioè nessun dirigente che doveva controllare ha controllato e l'ha segnalato. Oppure se controlla, poi dopo anche lui semmai fa la stessa cosa, e allora è questo anche il problema. Un po' l'inerzia, perché poi il vero dramma, secondo me, è che queste persone, non gestendo soldi propri, cioè non sentendo l'attivo dell'azienda come un risultato proprio, probabilmente anche perché senza incentivi, senza aumenti di stipendio, senza promozioni, quindi diciamo in questa giungla dove queste persone si muovono senza alcuna soddisfazione, e quindi dove si può rubare si ruba, dove si può sprecare si spreca, non c'è un interesse a far sì che la cosa funzioni. No, ma è chiaro, è come abbiamo detto tante volte, soldi di tutti, soldi di nessuno, evidentemente. E saluto insieme a Fiorenza Sarzanini Serena Sileoni, vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni, ben ritrovata e grazie per essere con noi, Sileoni. Buongiorno a voi. È un po' il detto solito, no? Soldi di tutti, soldi di nessuno. Ma questa inefficienza c'è soprattutto e lì si annida quando si tratta di dipendenti pubblici, perché lì è più facile, perché lì i controlli sono meno, oppure è semplicemente una proiezione che si può applicare ovunque, anche nel privato? Beh no, sicuramente è una mala gestione del denaro non proprio, che non dipende dallo spirito cattivo o corrotto o lassista dei funzionari, ovviamente, dipende da quello che avete appena detto. Sono soldi altrui, sono soldi di tutti, che non sono di sicuro di coloro che li devono gestire e che devono render conto di una gestione approntata a criteri di efficienza e di economicità. Vogliamo ricordare questa cifra, 3 miliardi di euro in 6 mesi, questo dice la Guardia di Finanza, un rapporto della Guardia di Finanza. Però sì, Leone, abbiamo fatto un presidente dell'Authority Anticorruzione, Raffaele Cantone, ci dovrebbero essere i controlli, non è che stiamo imputando a quell'Authority i mancati controlli, poi i controlli devono essere anche fatti dai dirigenti, da chi lavora, dalle persone che sono proprio preposte in ogni ufficio dove ci sono queste presunte o vere ruberie. Guardi, se c'è una cosa, scusi, credo di aver intuito, se c'è una cosa che non manca nel nostro paese, nel nostro sistema giuridico, sono le leggi contro le leggi che prevedono i controlli, i controllori, è tutto un fiorire di sistemi di controllo interni o esterni agli organi amministrativi o paramministrativi. Però noi facciamo sempre lo stesso errore, cioè aggiungiamo controlli a controlli e controllori a controllori, l'autorità anticorruzione da ultimo, ma sto pensando anche a questioni più ampie come la riforma della prescrizione, che sembra che ci renderà tutti un giorno proprio onesti. Il problema non è questo, il problema non è che non c'è la possibilità di controllo o non bastano i controllori, il problema è l'esatto contrario, ne abbiamo troppe di norme e di controllori, perché troppe cose vogliamo fare. Un'amministrazione in senso molto ampio, ci metto dentro anche i servizi pubblici locali, ci metto dentro tutto il perimetro di chi gestisce soldi non propri, un'amministrazione così dilatata che si deve occupare di tutto e si può occupare di tutto con una marea di soldi pubblici, è ovvio che sia l'humus per, non dico soltanto reati a danno dell'erario, quindi la corruzione, ma proprio appunto per un disservizio, per una gestione incurante di soldi, di risorse che non sono proprie. Quindi non è tanto aggiungere un controllore, casomai è diminuirli. Segnalo tra i vari casi che Fiorenza Sarzanini citava da questo rapporto, 47 milioni che si sono volatilizzati in Sicilia per corsi di formazione, che evidentemente non sono stati corsi di formazione ma sono serviti per qualcuno a intascarsi del denaro. E poi a Bari alcuni manager delle Ferrovie Sud-Est accusati di questo avrebbero comprato 25 carrozze passeggeri a 912.000 euro. Poi le hanno date a una società polacca che ha fatto dei lavori di ristrutturazione e poi hanno ricomprato queste carrozze a 22 milioni e mezzo di euro, provocando un danno alla società pubblica che la Corte dei Conti ha stimato in 11 milioni di euro. Ma poi Fiorenza Sarzanini, tu hai anche citato che nel 2014 sono stati 11.600 funzionari pubblici nel mirino della Corte dei Conti, poi che succede in questi casi? Cioè, alcuni saranno assolti perché sarà tutto a posto, ma quando ci sono problema è proprio questo, è vero che non ci sono che ci sono troppi controlli. In realtà io quando parlo di mancato controllo, parlo di controllo efficace, non quelli previsti. Quelli previsti sono effettivamente e non previsti dai magistrati, ma quelli di controlli... Il problema è che non c'è nessuna vera sanzione, cioè il licenziamento è difficilissimo, anche di fronte, cioè devi arrivare alla condanna definitiva. Allora io capisco il sistema delle garanzie, ma se tu hai sprecato dei soldi, che sia per inerzia, che sia per... Secondo me questo dovrebbe prevedere una sanzione che arriva fino al licenziamento. Ma come questo minimo? Per i dipendenti pubblici non c'è mai. Come e questo minimo? È il problema, è il problema dell'impunità. Allora, non si può fare nulla finché non arriva la condanna penale definitiva. Anche la Corte dei Conti, è vero che poi fa delle sentenze che prevedono il pignoramento dello stipendio, il pignoramento dei beni, ma spesso questa gente, il corrotto, difficilmente ha dei beni facilmente aggredibili. Sì. Quindi poi tutto questo si risolve in un rischio minimo per chi ha rubato e con un danno gravissimo per la collettività. Questo secondo me è lo squilibrio. E soprattutto questi denari si recuperano, cioè questi 3 miliardi persi o sottratti alle casse dello Stato si recuperano oppure no? No, comunque se ne recupera una minima parte tra talmente tanti anni che naturalmente vanifica quelli che sono gli sforzi fatti e invece aumenta sicuramente il danno. Questo è il vero problema. Serena Sileoni, qual è la soluzione? Meno controlli, ci ha detto, più efficienza in che cosa? Più meno Stato, io lo so che l'Istituto Bruno Leoni dite meno Stato, questa è la soluzione, cioè perché lì si annidano le corruttele, lì si arridano, però al di là dell'ideologia anche sottoscrivibile per alcuni aspetti, nel dire meno Stato è questa l'unica soluzione che proponete? Ma guardi, lo diceva la Sarzanini, il meno, quando io dicevo ci sono troppe forme di controllo che diventano inefficienti, cioè c'è troppa amministrazione che diventa inefficiente, lo intendevo anche per quanto riguarda i controlli, anche lì sarebbe molto meglio averne molti meno, evitare di fare ogni volta l'ennesima legge sull'onda dello scandalo, e penso in questo anche alla legge Severino, e invece far funzionare pochi controlli ma fatti bene. Non solo, e ha assolutamente ragione la Sarzanini, dal punto di vista della giurisdizione, quindi i controlli dei magistrati, ma ancora prima e a monte i controlli all'interno della pubblica amministrazione, evitando, anziché aggiungere armi spuntate a armi spuntate, che è quello che abbiamo sempre fatto, compresi i premi, sì, di produttività, gli emolumenti, a pioggia, a pioggia. Anziché appunto aggiungere armi spuntate, limare quelle che esistono e farle funzionare, in primo luogo appunto le sanzioni effettive, comprese licenziamento, per chi si comporta male, anche senza essere, diciamo, anche senza commettere reati. Però questa è la storia, temo purtroppo che non ci siano ricette finché non cambi un po' il modo di pensare delle persone. No, temo anch'io. Perché fino adesso la risposta è stata sempre: non tocchiamo la pubblica amministrazione, non tocchiamo la separazione tra la legislazione, il diritto del lavoro dei privati rispetto a quelli pubblici, perché hai lo scandalo. Sì, temo anch'io che ci ritroveremo, non dico tra un anno, tra sei mesi, visto che questo è il rapporto dei sei mesi del 2015, a dire le stesse cose. Insomma, questo è il timore un po' che c'è. Comunque il rapporto è anche disponibile, credo, Fiorenza, oppure come si può recuperare questo rapporto a Guardia di Finanza? È disponibile magari su internet, si trova da qualche modo? Questi sono dei rapporti, diciamo che sono dei consultivi interni che la Guardia di Finanza veicola appunto anche alla Corte dei Conti, ma non hanno una veicolazione pubblica. Allora, va bene, io intanto ringrazio Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera e ringrazio Serena Sileoni, vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni, che ci hanno raccontato questa pagina. Ricordiamo, sono 4.835 i dipendenti pubblici che hanno rubato, sperperati soldi della collettività, questo almeno dice questo rapporto della Guardia di Finanza, tutto ciò nei primi sei mesi del 2015, dunque un buco da oltre 3 miliardi di euro, soprattutto i settori sono la sanità, le ferrovie, i corsi di formazione. Ci sono dei casi davvero clamorosi, li ha pubblicati il Corriere della Sera, ne parlava anche però il Giornale lunedì scorso. Allora, io vorrei avere in linea, ci ha risposto qualche minuto fa e poi adesso non lo troviamo più, il sindaco di Mortara, perché succede a Mortara un piccolo giallo ed è questo. Almeno cita il Corriere della Sera, il sindaco leghista che caccia dal campo la squadra di calciatori profughi. Oggi anche l'Unità scrive: sindaco leghista vieta il campo alla squadra dei profughi, con Pavia invece che dice giocate qui. Allora, sindaco Marco Facchinotti, buongiorno di Mortara. Buongiorno a voi. Lei è leghista? È leghista? Sì, assolutamente leghista. Sì. Allora, da tempo immemorabile. Brutto e cattivo che caccia... Che ha fatto? Ma è vero? Cioè, sui giornali dicono che lei ha tolto il campo alla squadra che schiera anche i profughi. Allora, quanto tempo ho a disposizione? Ma sono 4 minuti, guardi, abbiamo 5. Semplicemente, allora, la società Mortara Calcio usa una struttura ufficiale della Comune di Mortara a titolo gratuito, percepisce un contributo di circa 50.000 euro all'anno tra utenti, eccetera, eccetera. Come molte società di calcio. Sì, sì, assolutamente, può svolgere la sua attività, non è un affitto, è lì gratuitamente, è una struttura con tutte le carte in regola, eccetera, eccetera. Il fatto di, come dire, adesso lasciamo stare il fatto che siano profughi o non profughi, di ospitare squadre terze senza senza nulla dire, ma questo è stato un errore di comunicazione tra, per presumo, qualche dirigente e il presidente, per il quale spezzo una lancia perché era sempre per ferie e è ritornato. Quindi non è possibile, se io do in uso la mia mansarda a un amico, no? A titolo gratuito, gli offro anche da mangiare, eccetera, eccetera, poi... Una dai subaffitto, cioè mi faccia capire, esatto, se l'ho capita bene. Lei, l'amministrazione, esatto, dà dei soldi al Mortara Calcio, esatto, a titolo gratuito, okay, per utilizzare la struttura. Certo, loro, certo, hanno messo una squadra, hanno ospitato nel loro centro una squadra di profughi. Non solo di Mortara, di anche paesi vicini. Sì. E a lei questo non sta bene, perché dice: noi diamo i soldi al Mortara Calcio, non a squadre terze. Esatto, e poi per smorzare il sindaco cattivo, brutto, cattivo, i ragazzi, una parte di questi ragazzi che sono ospitati in una palazzina qui a Mortara, proprio di fronte hanno un campo di calcio con tanto di porte, eccetera eccetera, le quali fino a ieri, ma ancora ieri pomeriggio, hanno giocato, fanno la sgambata, giocano al pallone. No, capito, però sindaco, il risultato è che lei nega il centro sportivo al Mortara, che ospitava una squadra di profughi. Capisce che è un passaggio in più, ma il sindaco il Mortara Calcio continua a giocare. I profughi no. No, può giocarci in Mortara Calcio. E quindi... esatto, i profughi no. Cioè, altre squadre no. Altre squadre no. C'è la squadra giovanile formata da ragazzi i genitori pagano una retta mensile, quindi eccetera eccetera, però ripeto, nessuno, voglio dire, la città, la popolazione non ha detto no perché questi ragazzi giocano in questo campo. Lo chiamano campetto, ma è un campo, è un campo aperto, proprio di fronte alla loro. Sì, però sindaco, scusi, le faccio questa domanda. Sì. Se il Mortara Calcio avesse ospitato una squadra di svedesi, non poteva farlo. Quindi non c'entra niente il fatto che bianchi, rossi e verdi, non c'entra niente. Una questione di regole, proprio rispetto delle regole. Quindi poi ci siamo chiariti con il presidente, ha capito, il presidente era via, ripeto, spezzo una lancia a suo favore perché il presidente era via. Infatti ha avuto la riunione domenica pomeriggio e ha detto: ragazzi, questa cosa non si può fare. Qualcuno magari in buona fede l'ha fatto, però, quindi oggi c'è sull'Unità anche oggi una pagina, ve la segnalo: sindaco leghista vieta il campo ai profughi, e Pavia dice: venite qui, vi ospitiamo noi. Vanno a Pavia a fare una partita. È stato come minimo un errore di comunicazione. Lei si è messo in questa situazione un po' scomoda di dover adesso giustificare. No, mi fa rispettare le regole, cioè una comunicazione tra la società di calcio, che magari qualche dirigente che non sapeva come erano le regole fissate con l'amministrazione comunale. Sì. Ma lasci stare il bianco, se fosse norvegese, svedese, ungherese Il fatto che quei soldi servono solo per il Mortara Calcio, non possono ospitare altre squadre. Va bene, poi, sindaco. No. Sulla partita amichevole una tantum ci possiamo anche pensare. Ah, vabbè, come gesto così di amicizia. La ringrazio, sindaco di Mortara, Marco Facchinotti, provincia di Pavia. È finito su tutti i giornali come il sindaco brutto e cattivo che nega la squadra ai profughi, il calcio ai profughi. Ma ci ha spiegato le sue ragioni. La segreteria telefonica. Alessandro Milano, sei bravissimo, mi piace tanto quando dice: ma chi se ne frega? La riforma del Senato tira l'acqua in loro mulini, perché si devono riprendere la poltrona dopo il 2018. Grazie e viva l'Italia! Agli italiani non interessa un cazzo il Senato. Milan, chi ti sei brunto? Le nocche ti sei fior segreto della Merkel? Che per chi non capisce il milanese, mi chiede la signora se io non sia il figlio segreto della Merkel. Va bene, dai, ci fermiamo. Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Chiudiamo qui e vi diamo appuntamento a domattina alle 6.30 con 24 mattino. Eccoci qua. Parte Balotelli. Gol! Balotelli! Gol! Attaccare!